arriverà magari che ti faccio vedere com'è la campagna, è un fosso. L'antenna era buttata in terra lì, vista, gli ho lanciato così da diario, ho toccato appena la molla, stazionario 1.3. Mi arrivavi 9 più 15 in campagna. E io pensavo addirittura, no, da questa posizione, guarda, mi sentiranno lì punti, ottava, porto torre, scosa, ma sa ci arriverà male arrivarci. E invece, grazie a Dio, Santiago 9, così vuol dire che già va bene, se mi sollevo va. La grande Alessia, io posso implementare anche i 20 dB, non è un problema. Io l'antenna c'è nel giardino, sapete, a 4 metri d'altezza, se la metto sul tetto della casa col tubo grande sono 10-12 metri di altezza, quindi tu immaginati, incremento moltissimo, allora l'antenna vede Sassari, ma così non la vede, ma non mi interessa, no? Esteticamente non mi piace sul tetto della casa, capito? Assolutamente no, rimane dov'è e già mi sentono tutti, non c'è problema, non c'è problema, avanti il doppio rumore, riprende e fai girare. Trasportante, magari esce. Ah boh, comunque è entrato un altro che già due volte che parla sopra Claudio, non ho capito se me lo sente o cosa. Vieni avanti con il buongiorno. C'era Claudio che stava modulando, gli è parlato sopra. Sì, per far vedere che è forte, giustamente. C'è Giovanni da Platamona. Lo metto la portante, vuol dire abbasso il volume e faccio altro. Vai, non sono io. È entrato qualcuno, buonasera, buongiorno. Adesso è entrato qualcuno, non sono io però. Ti metto la portante e basta, ma non sono io però quello che te l'ha fatto. Oh, però ci avete il dito facile, ragazzi. Allora, adesso stava parlando Antonio Bumbolino, dicendo che non era lui. Giovanni è a Sassari, deve essere in BM. Tu Gianni hai parlato sopra Bumbolino, non se ne comprende più nulla. No, hai fatto male la ruota. Prima c'era Giovanni che stava parlando e Bumbolino ha parlato sopra, senza accorgersi naturalmente. No, già ho avuto, già visto da sempre che accade un numero macchina in capo, non pensa di fare un voto. Adesso mi sposto la roba nell'armadio e ne togliamo il drone e lo teniamo pronto, elettricamente, così vediamo se qualcuno si mette a fare da monello. L'ha fatto involontariamente Giovanni, non penso che l'abbia fatto di proposito, sicuramente nel punto dove stava passando non ti sentiva, ma è successo per due volte. Poi avanti andiamo abitando sopra a Cosu, Bumbolino che stava dicendo, ma mica non sono io, un casino. No, ma non perché, così lo uso il drone, teniamo pronto, lo collego all'FT920 della Yaesu, perché quello è HS lineare amplificatore da 1,5 kW, vediamo, quando c'è gente che fa monello tiriamo sulla leva. Aio. Non ti preoccupare, quando vado a segnare a 9.60, allora stai tranquillo che mi dica, ma dove sei, sotto casa? Aio. Cazzo, mi arrivo, mamma mia, tutti vuoti, gioca, se non vicino all'altro, a buon arrivare, no, che era l'andrica. Ascolta, ti volevo chiedere, siccome io qua a casa lo stavo sempre utilizzando con 3 watt, poi l'altro giorno in campagna li ho alzati i watt, c'ho 9 watt a portante muta e 11-12 modulati, ma il segnale da qua da casa, come ti sto arrivando io adesso a casa tua? Sì, 9, con picchi a 9.5. E la radio è buona, non è satura, non c'ha problemi, no? Nulla, bellissima, e con l'antenna diretta è un'altra gubba. Quando inizi ad attaccare un sacco di cose, strumenti e strumentini, è chiaro che l'RF c'è, è sempre un agguato, basta un niente per farti fischiare il microfono, capite? Ehi, portalo qua Claudio, che lo proviamo. Non posso dovervi attaccare, Daniele, no? È il valvolare quello, tu. Quello è il valvolare della Yaesu, l'FL2100. Sai se vuol dire FL2100, Zeta, no? Che c'ha 1000-1200 watt in AM e quasi 2000 in banda laterale. E se vedi, ci castellano con giugà, o di giugemo, visto che considerato che siete tutti forti, uno attaccato all'altro. Ci sono anch'io, Prendiamo la corrente dall'altro caseggiato, non ti preoccupare. Solo che è un casino da boemi. Ma si è cacchepiele già sei in aria, eh? Sì, esclusa l'ibuprofeno. No, no, no, ci vuole impianto fatto bene, non così, infatti quella antenna non tiene, né quella che c'è lì né quella che c'hai a casa tiene. Io l'attacco all'altra, quella grossa, quindi non c'è problema. E poi io ho tutti i PL Amphenol, il cavo, c'ho il mesceparone, quello grosso, proprio l'impianto è fatto bene, tu fate fare quegli amplificatori, non perché ci ha fatto male il tuo, ma è per avere quella potenza minima, però quando hai già queste potenze che superi i 700-800 watt deve avere un impianto serio, se no ti greba tutto. Avanti Gianni Rubrofetta, scusa, e fai girare per doppio rum. Eia. Ciao Gianni, ciao Antonio, non ci siamo salutati, io Carlo proprio l'ho completamente perso, c'ho Montero davanti, niente, gli altri tutti forti, tipo Mani Forza 9. Ragazzi, io vi devo salutare, ci sentiamo, ciao ciao, perché devo fare roba, ciao ciao. Ciao Antonio, buon mulino, ci sentiamo, buon proseguo di giornata. Ascolta Claudio, con 25 ampere continui, 30 di picco, cosa posso far andare? 300 watt ce la fa a tirarli? Non penso, no? Ci vorranno per minimo 30 ampere pieni. Non ho capito, un accidente, cioè questo è quello importante. Io la sento importante, ho detto con un 25 ampere continui, 30 di picco, lineare da quanto posso poi andare? 300 watt non ce la fa? Un po' in salita ti viene, per un 300 watt per farlo lavorare bene ci vuole almeno 40 ampere, almeno 40 ampere, capito? Almeno 40 ampere, perché a mezzo figurati il 747 all'interno del Galaxy controllato con l'amperometro esterno, già un 100 watt pieni perché le da tutti, già assorbe 16 ampere, 16 quasi 18 ampere, quindi capa, quindi dai, per andare tranquilli, per non mandarlo sotto sforzo, non più di 200 watt, dai. Sì. Gianni, tu ce l'hai collegato al Proxel, il 300 tuo, no? Gianni, doppio room, ma Gianni è al telefono, si è allontanato. Gianni c'ha il 300, quello della Metalli, che è un bellissimo amplificatore, 505 mi sembra che sia. E lui ti può dire quanti ampere assorbe, ma penso una ventina forse, ma lui c'ha il 60 ampere come quello che c'ho io. Capo, sì, no, già me l'ha fatto vedere, già lo conosco, quello della RM. Quello è un signor amplificatore, io c'ho l'805 di quello, quello ha 3 ventole, è lungo 1 metro, però HF, capito, no, non lo sfrutto in 27, preferisco collegare quello valvolare, almeno scaldano le valvole. E quello valvolare quanto ti tira fuori? 1 kW? Quello è l'FL2100 della Yaesu, HF, non è CB, no, non lo puoi attaccare qua al 140, quello lo puoi attaccare al 920, all'FT920, perché ci sono i cavi di eccitazione, nel senso che se tu non attacchi i cavi non va importante, è una cosa diversa l'HF, lineare HF con quelli del baracchino, capito? Non hanno niente a che fare, non funzionano col baracchino, quello che c'ho io, è un lineare 0,30, fa 10, 15, 20, 40 e 80, capito? Mia Xavi, è un lineare HF, per le HF, per le bande amatoriali, però funziona anche in 11 metri, perché lo metti in 10 metri e funziona anche in 11. Beh, il terzo manager si occupava i denti, un profeta. Eia, vabbè, stavo ascoltando, dai. Io quando mi fanno la domanda le spiego le cose, poi se non va, non va. Ma Natalino sparito, non so, c'era un portante, non so, sicuramente sta pranzando, dai, l'orario è quello. Beh, sicuramente, non so Gianni dove è andato a finire. Gianni doppio lungo, Gianni doppio. Sono al cellulare, Claudio. Ma immaginate, no, e poi devo dire una cosa che mi ha chiesto Sorridio. Scusate, mi sono allontanato un attimino, che aveva detto, dimmi Claudio. No, niente, ho detto, quando Gianni finisce al telefono glielo chiedo a lui quanto c'ha di assorbimento col suo, che è un 300, capito? lui ce l'ha attaccato al 60 ampere come c'ho io, ci abbiamo lo stesso alimentatore della Proxet, quindi non lo so. Vabbè, il prof è deciso che antenna mettere, o ancora sei indeciso? Ho già deciso, dai. Ho già deciso, metto la Sirio direttamente, si rabbia le luci. La Sirio? La Sirio... Qual è la Sirio? La GPV... GPV 27 senza variare. Mezz'onda, 5 metri e 80, dai. Non ho capito, vabbè, se va bene, che ti accontenti, ce ne sono di meglio, comunque, se ti accontenti già va bene. No, va bene per me, no, ma ragione non ne voglio, non ho tantissime pretese, cioè giusto, come si dice, faccio questo upgrade, questo passo, metto un'antenna, cambio il capo e poi non devo fare nulla, va bene così. E su una radio ci metto la 5, ma la mezz'onda, e sull'Urano ci metto la boomera, e l'asciutto così. Allora, se va bene. Sì, come me, no? Io potrei fare quello che voglio qua, guarda, veramente, ci ho posto. Adesso preparo una long bar che è un dipolo lungo, 50 metri. Ero butto in campagna col Balom 9-1 e mi faccio le HF con quello, tenendo anche l'altra a 10 metri e poi la 27 basta, non piazzo altro perché sennò diventa un mondezzaio, ho capito, diventa un mondezzaio, cavi non ce ne vedo, non è perché passano dietro il corridoio del Carverio, però esteticamente diventa una cosa brutta, perciò già va bene così. Eia eia, sì, sto bene così, faccio quello che ho detto, l'antenna, il cavo e poi quel microfono che mi ha consigliato Marco, che lo voglio mettere sull'Uranus, così almeno cerchiamo di rinvigorire un pochettino quell'apparecchio, dai, perché così com'è non è che sia così, non è che spinge poi così tanto a livello di modulazione, dai. Sicuramente con quel microfonino qualcosa in più la tiriamo fuori, poi per il resto va benissimo così. KK. Voi dicendo già, che assorbimento hai tu col Proxel, col 300? Tu per fare tu c'hai 505 come lineare, quello del Metal, quello un po' più piccolo del mio. Però già 300 watt, quanto c'è l'assorbimento? 15, 20 ampere? Claro, non lo so perché ce l'ho attaccato all'alimentatore, quello di computer, ce l'è presente, quello da 50 ampere, quindi non segna nulla, non lo so. Almeno all'incirca sui 25 ampere consumerà, io penso, è a piena potenza, 300 watt. Anche secondo me, ti ripeto, perché il mio, quello che è dentro il Galaxy, che è un 100 watt, ok, siamo intorno ai 16-18 ampere di assorbimento, quindi un 300 forse assorbe anche 30 ampere, non lo so, però lui, vedi, lui lo sta alimentando con 50 ampere, quindi è tranquillo. Se tu le dai 25 ampere sei al limite, nel senso che non ce la fai, sapete. No, ma il discorso magari potrebbe anche farcela, però va sotto sforzo e c'è il rischio che l'alimentatore lo bruci, perché se lo sfrutti ti tiri il collo, avvini pari. Lo so, ma infatti già ne lo sta alimentando con 50 ampere, così è tranquillo, capito? Però anche se lo attaccava al Proxel che c'era l'amperometro, quello è un 60 ampere, quello ci abbiamo noi, 60 ampere di picco, 50, quindi è una favola con l'alimentatore, va bene. Avanti Gianni Piero, non riprendi, fai girare per il profeta. Ehi, allora, lo profe, come sta andando di radio? Un figurone. Questo è il microfono che ti devi prendere tu, mi è arrivato stamattina. Bella mossa. Con che radio l'hai abbinato? 3009. Sì, va bene già, rispetto a quello che stavi usando ieri avanti ieri è tutta una craguba. Chiaramente la radio è tutta originale, non hai toccato nulla, no? No, non ho toccato niente. Che microfono hai già? Cioè, ricordarmi come si chiama. Aspetta, c'è un nome strano. Non c'ho manco gli occhiali per guardarlo. Il K... Te lo ricordi tu come si chiama? KPO. Sì, ma è un preamplificato o cosa? Sì, preamplificato. Ma con la batteria da 9, da 1,5. Da 9? No, è buono, buono, buono, buono. Sono una bella radio, ma te l'ho detto, io ho sentito Marco, è favolosa la radio di Marco. E quella di Marco è un po' più, ma leggermente più spinta, perché lui ha aperto la LC, capito già. Però questa, per essere normale, rispetto all'altro microfono che avevi, su questa radio, come tonalità è tutta un'altra guba. Allora ho fatto bene a prenderlo là, anche se l'altro, se ho fatto quella modifica, ma non rendeva lo stesso. Marco mi ha detto di togliergli quella spugnetta, gliel'ho tolta, ma era la stessa cosa. E vabbè, interessante che ho trovato l'abbinamento giusto. Cara gara, poi lo voglio provare sull'altro. No vabbè, mi tocca spostare tutto, mi tocca togliere l'eco, fare l'ascolta, eccetera eccetera. Cioè, lo vorrei provare sul Cobra. Lascialo stare, non fare il Cobra. E questo microfono lascialo qua, poi sarebbe più qua. Magari sono sbagliate le connessioni, cazzo, e fai danno, lasciata già. Va bene così, se ti dico che va bene, qua va bene. Ma sì, al massimo come amplificazione. Adesso mi avete fatto venire in mente una cosa. Adesso sono al massimo qua. Ah, c'è al massimo, gatto mio al radio, là c'è al massimo, non so che c'è. Cavaliere. Forte, buona, ottima, ottima. Stavo dicendo, oggigiorno non so di che cosa mi sono pentito qua. Di cosa? Allora, io qualche anno fa, a una persona che comunque mi ha fatto diversi piaceri, e li facevo gli impianti nei fuoristrada e coso nelle macchine, gli ho regalato diverse cose come un apparecchio, un Intec 540 PSX, il 747, gli ho fatto gli impianti e balle varie, ma di quello non sono problemi. Mi sono pentito di aver regalato il Sa Delta. Ricordami come si chiamava? Si chiamava MC o CM oppure C, e aveva un numero C80 MC. Era un microfono piatto, rimaneva lungo e piatto, era Sa Delta con la batteria 9. L'unica cosa era quel microfono lì. Il rasoio da barba, sì, me lo ricordo, era feo ma pompava forte. Ma Roberto Meccanico, quella era una cannonata, non sono mai riuscito a fotterglielo, che bellissimo microfono, quello cromato. Avanti di lui, allora, aveva dietro un gancetto in acciaio per appenderlo. Adesso ti dico anche chi me l'aveva dato quel microfono. Me l'aveva dato la buonanima di Rambo, te lo ricordi? No. Forse l'ho sentito ma non l'ho conosciuto. Io quel microfono l'ho conosciuto una vita con l'MS-200 in macchina a Roberto Meccanico, una vita. Lui ci aveva l'MS-200 con quel microfono ed era una cannonata. C'era una radio particolare, rimaneva proprio strana, era, cosa ti posso dire, non metallica, né metallica né cosa, era proprio diversa. La timbrica è come quando tu vedi, schiacci portante, allora quando uno c'ha un MC60, come schiaccia portante, io te lo dico, stai utilizzando un MC60. La stessa cosa per quel microfono, se io adesso dovessi sentire qualcuno che entra con quel microfono, ti dico che è questa Delta lì, perché è micidiale, è una bomba, quindi quello me ne sono pentito, anche perché l'altro giorno l'ho trovato in vendita, lo stavano vendendo, lo volevano 100 euro, perché sono pezzi unici, non si trova, capito? E gli ho mandato un messaggio, gli ho detto, io posso capire che è vero che non lo trovi in giro, ma secondo me tu sei un pazzo, chi è che ti è disposto a darti 100 euro per un microfono a palmare? Ma questi sono pezzi unici, e infatti te ne diro. Guarda, per l'esperienza mia, fatta personalmente, microfoni usati, i tre microfoni che a me piacevano da palmo sono proprio il Sa Delta, quello che hai detto tu, il Diavolo Rosso e l'M+2, che praticamente è il M+2 da palmo, quello celeste con la gratta, non so se Gianni è d'accordo. Quelli per me sono i tre microfoni che andavano benissimo per i baracchini. M+2U. Esatto, M+2U celeste, con la gratta bianca. Ti dico che quel microfono io lo usavo nella faietta KB23 e ti dico che a questa che sto usando io se la mettevo in tasca. Ma che come estetica, non è bello? Bellissimo già, bellissimo. L'ho avuto una vita e poi l'ho dato con la KB23. B23 a Giampaolo RC2. Quando io sono andato via da Porto Torres, cioè sono andato a Sassari, come sono andato a Sassari, e ho comprato il 430 da Mario Notari con l'MC60, quindi immagino già di 87. Giampaolo RC2, non la buona, ma Giampaolo Silvestro, Giampaolo RC2, gli avevo venduto la Faietta HB23 col Turner più 2 da tavolo e l'M più 2, quello lì, gli avevo lato sia quello a tavolo che quello a palmo. Ok, poi allora adesso mi ricordo anche particolari, aveva la rotella, ce l'aveva sopra in alto ed era cromata da 1 a 10, era d'acciaio, la rotellina ce l'aveva d'acciaio, però il problema che aveva quel microfono, non sono mai riuscito a capire perché, quando toccavi seduta c'è andato, quando toccavi il gancetto che aveva per appenderlo, per dire se lo usavi in macchina per appenderlo allo specchietto, no, toccavi quel gancetto e innescava, non so perché, non ho mai, sono riuscito mai a risolvere. Non lo so, quello di Roberto Meccanico usciva una bomba, e anche Gianni, io Gianni l'ho sentito col Diavolo Rosso, che fine ha fatto col microfono? Ah, l'avevo venduto là, perché tutti dicevano che non c'aveva timbrica, che c'aveva solo acuti, questo e quell'altro, alla fine mi sono rotto le scatole e l'ho venduto. Sì, l'ho avuto il Diavolo Rosso, ma ne ho un altro, sempre della stessa marca, quello che c'ho nel Royce, quello lì è sempre della stessa marca. Sì, è sempre quello lì. Tu c'hai anche il coso, Sodelta, quello tipo Diavolo Rosso, con la vettina nera, quello lì c'hai anche. No, no, io c'ho Sodelta Master Plus, quello da tavolo. Ah, ho capito. Anch'io quello ce l'ho. Quello ce l'ho anche, non lo uso mai col Galaxy Prefisso, è sempre il P3. Vabbè, pazienza. Ragazzi, io vi saluto, dai, che è giunta l'ora della pappa, devo preparare a mangiare prima il bambino e poi mangiare noi. Buon pranzo a tutti, se coincide ci aggiorniamo stasera, ok? Il cambio per Gianni Rubrofetta a girare e ascolto i finali, poi chiudo, ciao. Eia, ciao Cla, buona carica. Niente, per Gianni il volume che cioè il cursore del volume del microfono, come ce l'hai a manetta adesso? Sì, adesso sì. Andava, ok, fai girare. Allora, adesso mi è venuto in mente un altro microfono che ho avuto nel, mi sembra, 98, l'M300. Già va bene anche quello, dai, ci esce bene anche quello lì. Adesso stavo cercando di fare memoria, mi ricordavo, era della Intec, se non sbaglio, vero già? Eia, ma la Intec ne faceva diversi anche da tavolo, l'M500 mi pare, quello da tavolo che pompava forte. Ma l'M300, ricordami, c'aveva solo l'amplificazione o aveva anche l'eco? Aveva l'eco anche. Beh, comunque saluto a Claudio che sta andando a Spapaisi, come dicono a Cagliari. Ciao Claudio, buon pranzo e buon tutto, e risentirci alle prossime. Stasera c'è il corso, roba di algebra che c'è in questo corso, mamma mia, io ne ho la terza media, un figurone. Ascolta Salvi, a parte il corso, comunque ce n'è uno che è uguale all'M300 adesso e si chiama Densey, lo trovi a fianco a quello stapparicchio che sto usando io, a questo microfono che sto usando io, a KPO. Praticamente a fianco, si chiama Densey e va molto bene perché c'è la Franco California e esce una bomba. Ecco, a presto. Scusa che stavo dando un gioco a pupa. Comunque ce n'erano microfoni buoni, però mi ricordo questa Delta c'aveva, era proprio potente, usciva forte, però aveva questo problema che se toccavo il gancetto che c'era dietro per appenderlo, che era in acciaio inox, innescava, non dovevi avvicinare la mano di lì, se toccavi quello innescava. E magari ce lo faccio contatto nel tuo, perché io a Roberto Quadrato, ma a Roberto Meccanico l'ho sentito un po' di voce parlando dal quadrato, e ci sì, ha un bel forse, non ho mai sentito di dischi. Andava benissimo, andava alla grande, sembrava un rasoio da barba, me lo ricordo benissimo, l'ho avuto anch'io mi pare. Non hai capito, no, già, anche il mio ci va benissimo, però se tu allungavi il dito e andavi, mentre stavi modulando, andavi a appoggiare il dito sopra quella tappetta, mi faceva un innesco. Non ho mai scoperto il perché. Secondo me o non è nato con quella tappetta in acciaio e quindi come andava a toccare faceva un rientro, non lo so, oppure ma penso che sia nato così. Quello era originale, quel gancetto lì in acciaio. E faceva, però se non avvicinavi la mano lì era una bomba. Allora perché era 10 di vadia soglio, sono un microfono a tavolo. Comunque adesso sto cominciando a pensare il 2009, ce l'avevo fermo, l'avevo comprato nuovo, usato pochissime volte, ma non l'avevo apprezzato ancora bene. Ciao, veramente una bella ricezione, caspita, si sente veramente bene. Ma il trattino del 2009, ma che marca è? Cosa? Che marca è? Il 2009, il 2009 originale, quello che hanno tutti. Il Superstar 3009, come quello che ho io. Ok, no, perché ci sono quella nuova marca, quelli nuovi apparati, che c'è il 6009 di X, coso, quelli lì. No, niente a che fare. Ma lì, come sta andando di radio? Già stai andando bene. Justo essere sul microfono, mi ha rivisto. Visto live. Ehi, aia. Va meglio con questo. Te credo. Cosa ti volevo dire? Gli avevo ordinato io gli attacchi per il Superstar. Ah, sì, perché li facevano con diversi attacchi. A 4, a 6, boh, mi pare a 5. Lo so, gliel'ho messo io a mettermelo per il Superstar 3009, le connessioni, così ti è arrivato già pronto. Sì, perché te lo chiede come lo vuoi. Sì, l'ho visto, perché io sono andato per farlo, però siccome non c'avevo la carta, pensavo che lo mandassero da pagare a casa, quando arrivava a casa, invece no. Infatti, adesso non me li fottono più i soldi, perché se le fottono mi mandano un codice e non ti pagano, capito? Devi unire su codice, se no non va avanti. E adesso si prendono il sicuro, perché molta gente ordinava la roba e poi non la ritirava, e per colpa di questi quattro imbecilli ci piangono tutti. A me mi hanno rubato due volte i soldi dalla carta, ho fatto distruggere due carte, adesso però è più sicura, nel senso che le poste ti mandano un codice ogni volta che devi pagare, no? Se tu non metti quel codice non paga la carta, capito? È così il discorso. All'Italia gli avevano rubato 150 euro dalla carta. Praticamente è andata alle poste perché non riusciva più a prelevare, aveva messo i soldi e praticamente gli hanno detto che le stavano prendendo troppi i soldi, quindi l'hanno bloccata alle poste. Gli avevano rubato quei soldi, gli hanno detto che non li poteva recuperare. Poi già lo sai che noi abbiamo quell'amico, ha controllato lui, ha detto, chi l'ha detto che non li può recuperare? Dopo un mese gli ha tornati i soldi. E hanno fatto le indagini che dovevamo fare e gliele hanno tornati. Io manco per le balle me ne ho fregato. Due volte me li hanno fregati i soldi da quella carta lì. Però adesso, se no io non ripongo il codice che mi manda le buste, ogni volta è diverso, no? Assolutamente non ne biglia né di no. E gli importi alti erano. Ascoltate, scusate l'interruzione, prima che sembra c'è baracchino, non so, pilotando 20 watt, 20 volt, come va? Meglio si brucia tutto. Ah, è finita, vai. Mica è la legge di Ohm, non è per tutti, vieni a non è fatonti, infatti. Ma ti volevo dire casera, venne chi c'è qua e cosa, ti volevo dire. Io mi sto facendo due corsi praticamente e io quelle cose le so già, ma ho già pagando, da 30 anni fa. No papà, mi domanda a Claudio, se non vi gridi. Io quei conti, quando ho preso mi ho fatto tutti i conti. Su 10 ne ho sbagliato una solo. Vabbè, allora ti voglio vedere, dai, quando buoni. senza palle e lo racconto mi vai tu. E lei non si preoccupi, io te le metto insieme in parallelo, come ti pare ti bialdi. Ma non solo le resistenze, anche i condensatori, quello che vuoi ti metto. Ascolti professore, allora venga a casa a farmi un po' di ripetizioni, venga che io non ne comprendo nulla. No, non so come fuendimi, non ho tempo per studiare, Natali. Tra due giorni nasce il pupo e secondo te ho tempo di mettermi a studiare cose, però mi devo mettere, se no tanto vale che sono venendo. Lo so. Se non studi, non... Guarda, è difficile perché è molto vasto il programma, però bisogna studiare, non c'è un cazzo da fare. Algebra, è che non ho mai masticato di algebra, me faccio la terza media io. Infatti, io l'ho imparata dopo, anch'io c'ho la terza media. È un problema, però io penso che nulla sia impossibile, capito? Le cose bisogna volerle. Volere e potere. E si conferma. Adesso, in questi giorni, purtroppo, tra lavoro e l'aria, siamo quasi tutti i giorni a San Pietro. È un tampone, è una visita, è quello, quell'altro, siamo sempre lì. Non c'ho, la verità, non ho avuto tempo per mettermi le cose. Però adesso nasce il pupo lunedì e quindi vedremo, mi dovrò applicare, se no tanto vale che continuo a frequentare Natali, perché tanto quelle sono cose che ti verranno chieste. Penso proprio più di sì. Dai, io la buona volontà ce la metto. Comunque dai, a parte gli scherzi, mi sono accorto che stavo andando a 12 volte invece che a 13,8. Ma cambia qualche cosa, ha migliorato, A 13,8 va bene. E adesso a 13,8. Infatti vedo, perché vedevo la luce dello smitter bassa. E dico, cazzo, è poco, o si sta fulminando la lampadina. A me nel 3009 mi si è fulminata, cazzo. Era giù su un LED di chiti bianchi con la resistenza, uno spettacolo è il 3009 adesso. Questo c'ha la lamparina sua originale ed è gialla, e non vuole vista la verità, e la vuole cambiare. Ma se li metto il LED le devo mettere la resistenza anche, se no non va. Io, perché non ti hanno spento, boh, è brutta a vedere, la verità. Io non voglio cambiare, Natali. Dovrei avercele. Aspetta che guardi. Eia. E niente, Gianni, e tu perché non ti sei iscritto? Perché non sei venuto al corso? Perché non ti sei iscritto? Perché non ho interesse, non mi interessa. Mi interessa stare qua, a me mi piace stare qua e mi va bene così. Non voglio stare a spendere altri soldi in antenne, in apparecchi, questo e quell'altro. Non naggio da quindi così. Va bene così, Savi. Ecco, le quattro chiacchiere me le faccio anche qua. No, beh, ma quello ci piove, lo da c'entra, non è che perché magari io riesco a prendermi, ipoteticamente, a prendermi la patente e non entro più in 27, cioè io dovrò sempre modulato in 27 e in 27 modulerò comunque. Però comunque è una patente, se vuoi tenere un'apparecchiatura professionale e cose, nessuno ti può dire niente. Poi, se si ha l'altezza di poter entrare nel QSO, nei discorsi determinati radioamatori e cose, lo fai, se no ti limiti a fare ascolto, ok? Poi basta un capo, metti un'antenna per ricevere le cose, non è che devi avere per forza una centrale, o direttive, guido, guidaggio, vale. Lo puoi fare comunque, ascolto, basta, non ci vogliono tanti soldi, prendi un apparecchio già che ti fa la 0,30, poi ti fai 50, cosa? E radioamatori sì. Poi, per intervenire sul discorso e cosa, prima di fare molte figure te le devi riguardare bene, perché se sono persone professionali che l'hanno fatto e cosa, per intervenire e fare molte figure, ripeto, è meglio che ascolti e buca. Vabbè, quello per chi lo vuole fare non c'è problema, ma a me non mi attira e... Io ho fatto tanto ascolto, sono anche in CWL, quindi ascolto ne ho fatto, ho avuto dei buoni ricevitori, ne ho fatto tanto di ascolto, sai, in 40 e passa anni che ci sono in frequenza ne ho fatto di ascolto, però mi piace più. più qua, cioè, non lo so perché. Poi ognuno ha le sue idee, di cose, di gusti. Ognuno, io rispetto quelli degli altri, non devo rispettare i miei. Beh, certo, certo. No, vabbè, siccome mi è stata fatta questa proposta, allora amico, ho detto, vuoi frequentare il corso, guarda che è gratuito e cosa, ti interessa. Ho detto, dai, ci provo. Perché comunque sia, sarebbe una bella soddisfazione, anche perché è una cosa complessa, anche Natalino, mi l'ultima, la venerdì scorso Natalino mi sta facendo ascoltare, mi sta facendo un fumo dalle orecchie, è complesso amico, le cose, non è un gioco. Senza ombra di dubbio c'è tanta elettronica, c'è tanti conteggi da fare, ma dice che adesso non li fanno più conteggi, non ci sono più conteggi da fare. Ragazzi, mi sono guardato adesso l'orologio, dove andrà a prendere la bambina, a dopo se ci siete. Vai, vai, non te ne dimenticare. Guai a te. E io stasera adesso devo portarci il cane. Natali, vai, salve, dai, ci sentiamo. Buona giornata, dai, io chiudo, me ne vado a mangiare, dai. Natale, Natali l'ha chiuso. Claudio, ci sei? Claudio ha salato la misura. Ciao, dai, ci sentiamo dopo. Ma lui sta sempre all'ascolto, quindi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Salve, salve Dio.